ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Dopo la morte di suo padre, Medardo cominciò a uscire dal castello. Fu ancora la balia Sebastiana la prima a accorgersene, un mattino, trovando le porte spalancate e le stanze deserte. Una squadra di servi fu mandata per la campagna a seguire le tracce del visconte. I servi correvano e passarono sotto un albero di pero che avevan visto, a sera, carico di frutti tardivi ancora acerbi. «Guarda lassù!» disse uno dei servi. Videro le pere che pendevano contro il cielo albeggiante e a vederle furono presi da terrore, perché non erano intere, erano tante metà di pera tagliate per il lungo e appese ancora ciascuna al proprio gambo. D'ogni pera però c'era solo la metà di destra o di sinistra, secondo da dove si guardava, ma erano tutte dalla stessa parte e l'altra metà era sparita, tagliata o forse morsa. «Il visconte è passato di qui», dissero i servi. Certo, dopo essere stato chiuso a digiuno tanti giorni, quella notte gli era venuta fame e al primo albero era montato su a mangiare pere. Andando, i servi su una pietra incontrarono mezza rana che saltava, per la virtù delle rane, ancora viva. «Siamo sulla traccia giusta», e proseguirono. Si smarrirono, perché non avevano visto tra le foglie mezzo melone e dovettero tornare indietro finché non l'ebbero trovato. Così dai campi passarono nel bosco e videro un fungo tagliato a mezzo, un porcino, poi un altro, un boleto rosso velenoso, e via via, andando per il bosco, continuarono a trovare, uno ogni tanto, questi funghi che spuntavano da terra con mezzo gambo e aprivano solo mezzo ombrello. Sembravano divisi con un taglio netto e dell'altra metà non si trovava neanche una spora. Erano funghi d'ogni specie, vesce, ovuli, agarici, e i velenosi erano pressappoco altrettanti che i mangiabili. Seguendo questa sparsa traccia, i servi arrivarono al prato chiamato delle Monache, dove c'era uno stagno in mezzo all'erba. Era l'aurora, e sull'orlo dello stagno la figura esigua di Medardo, ravvolta nel mantello nero, si specchiava nell'acqua, dove galleggiavano funghi bianchi o gialli o colore del terriccio. Erano la metà dei funghi che gli aveva portato via, e ora erano sparse su quella superficie trasparente. Sull'acqua i funghi parevano interi, e il visconte li guardava. E anche i servi si nascosero sull'altra riva dello stagno e non osarono dir nulla, fissando anch'essi i funghi galleggianti, finché s'accorsero che erano solo funghi buoni da mangiare. E i velenosi? Se non li aveva buttati nello stagno, cosa mai ne aveva fatto? I servi si ridiedero alla corsa per il bosco. Non ebbero da andar lontano, perché sul sentiero incontrarono un bambino con un cesto. Dentro aveva tutti quei mezzi funghi velenosi. Quel bambino ero io. Nella notte giocavo da solo intorno al prato delle Monache a farmi spavento, sbucando d'improvviso di tra gli alberi, quando incontrai mio zio che saltava sul suo piede per il prato al chiaro di luna, con un cestino infilato al braccio. «Ciao, zio!» gridai. Era la prima volta che riuscivo a dirglielo. Lui sembrò molto contento di vedermi. «Vado per funghi», mi spiegò. «E ne hai presi?» «Guarda», disse mio zio, e ci sedemmo in riva a quello stagno. Lui andava scegliendo i funghi e alcuni li buttava in acqua, altri li lasciava nel cestino. «Te», disse dandomi il cestino con i funghi scelti da lui, «fateli fritti». Io avrei voluto chiedergli perché nel suo cesto c'era solo metà d'ogni fungo, ma capii che la domanda sarebbe stata poco riguardosa e corsi via dopo aver detto grazie. Stavo andando a farmeli fritti, quando incontrai la squadra dei famigli e seppi che erano tutti velenosi. La balia Sebastiana, quando le raccontarono la storia, disse: «Di Medardo è ritornata la metà cattiva. Chissà oggi il processo». Quel giorno doveva esserci un processo contro una banda di briganti arrestati il giorno prima dagli sbirri del castello. I briganti erano gente del nostro territorio e quindi era il visconte che doveva giudicarli. Si fece il giudizio e Medardo sedeva nel seggio tutto per storto e si mordeva un'unghia. Vennero i briganti incatenati. Il capo della banda era quel giovane chiamato Fiorfiero, che era stato il primo ad avvistare la lettiga mentre pigiava l'uva. Venne la parte lesa, ed erano una compagnia di cavalieri toscani che, diretti in Provenza, passavano attraverso i nostri boschi quando Fiorfiero e la sua banda li avevano assaliti e derubati. Fiorfiero si difese dicendo che quei cavalieri erano venuti bracconando nelle nostre terre e lui li aveva fermati e disarmati, credendoli appunto bracconieri, visto che non ci pensavano gli sbirri. Va detto che in quegli anni gli assalti briganteschi erano un'attività molto diffusa, per cui la legge era clemente. Poi i nostri posti erano particolarmente adatti al brigantaggio, così che pure qualche membro della nostra famiglia, specie nei tempi torbidi, s'univa alle bande dei briganti. Del bracconaggio, non dico, era il delitto più lieve che si potesse immaginare. Ma le apprensioni della Bale Sebastiana erano fondate. Medardo condannò Fiorfiero e tutta la sua banda a morire impiccati, come rei di rapina, ma siccome i derubati a loro volta erano rei di bracconaggio, condannò anch'essi a morire sulla forca. E per punire gli sbirri che erano intervenuti troppo tardi e non avevano saputo prevenire né le malefatte dei bracconieri né quelle dei briganti, decretò la morte per impiccagione anche per loro. In tutto erano una ventina di persone. Questa crudele sentenza produsse costernazione e dolore in tutti noi, non tanto per i gentiluomini toscani che nessuno aveva visto prima da allora, quanto per i briganti e per gli sbirri, che erano generalmente ben voluti. Mastro Pietro Chiodo, bastaio e carpentiere, ebbe l'incarico di costruire la forca. Era un lavoratore serio e di intelletto che si metteva d'impegno a ogni sua opera. Con gran dolore, perché due dei condannati erano suoi parenti, costruì una forca ramificata come un albero, le cui funi salivano tutte insieme, manovrate da un solo argano. Era una macchina così grande e ingegnosa che ci si poteva impiccare in una sola volta anche più persone di quelle condannate, tanto che il visconte ne approfittò per appendere 10 gatti alternati ogni due rei. I cadaveri stecchiti e le carogne di gatto penzolarono 3 giorni, e dapprima a nessuno reggeva il cuore di guardarli. Ma presto ci si accorse della vista imponente che davano, e anche il nostro giudizio si smembrava in disparati sentimenti, così che dispiacque persino decidersi a staccarli e a disfare la gran macchina. Quelli erano per me tempi felici. Sempre per i boschi col dottore Triloni, cercando gusci da animali marini diventati pietre. Il dottor Triloni era inglese. Era arrivato sulle nostre coste dopo un naufragio a cavallo d'una botte di Bordeaux. Era stato medico sulle navi per tutta la sua vita e aveva compiuto viaggi lunghi e pericolosi, tra i quali quelli con il famoso capitano Cook. Ma non aveva mai visto nulla al mondo perché era sempre sotto coperta a giocare a 3-7. Naufragato da noi, aveva fatto subito la bocca al vino chiamato Cancarone, il più aspro e grumoso delle nostre parti, e non sapeva più farne senza, tanto da portarsene sempre a tracolla una borraccia piena. Era rimasto a Terralba e diventato il nostro medico, ma non si preoccupava dei malati, bensì di sue scoperte scientifiche che lo tenevano in giro e me con lui per campi e boschi, giorno e notte. Prima una malattia dei grilli, malattia impercettibile che solo un grillo su 1000 aveva e non ne parliva nessun danno, e il dottor Triloni voleva cercarli tutti e trovare la cura adatta. Poi i segni di quando le nostre terre erano ricoperte dal mare, e allora andavamo caricandoci di ciottoli e silici, che il dottore diceva essere stati ai loro tempi pesci. Infine, l'ultima grande sua passione, i fuochi fatui. Voleva trovare il modo per prenderli e conservarli, e a questo scopo passavamo le notti a scorrazzare nel nostro cimitero, aspettando che tra le tombe di terra e d'erba s'accendesse qualcuno di quei vaghi chiarori. E allora cercavamo di attirarlo a noi, di farcelo correre dietro e catturarlo, senza che si spegnesse, in recipienti che di volta in volta sperimentavamo, sacchi, fiaschi, damigiane spagliate, scaldini, colabrodi. Il dottor Triloni s'era fatto la sua abitazione in una bicocca vicino al cimitero, che serviva una volta da casa del becchino, in quei tempi di fasto e guerre e epidemie in cui conveniva tenere un uomo a far solo quel mestiere. Là il dottore aveva impiantato il suo laboratorio, con ampolle d'ogni forma per imbottigliare i fuochi e reticelle come quelle da pesca per acchiapparli. E lambicchi e crogioli in cui egli scrutava come dalle terre dei cimiteri e dai miasmi dei cadaveri nascessero quelle pallide fiammelle. Ma non era uomo da restare a lungo assorto nei suoi studi. Smetteva presto, usciva e andavamo insieme a caccia di nuovi fenomeni della natura. Io ero libero come l'aria perché non avevo genitori e non appartenevo alla categoria dei servi né a quella dei padroni. Facevo parte della famiglia dei Terralba solo per tardivo riconoscimento, ma non portavo il loro nome e nessuno era tenuto a educarmi. La mia povera madre era figlia del visconte Aiolfo e sorella maggiore di Medardo, ma aveva macchiato l'onore della famiglia fuggendo con un bracconiere che fu poi mio padre. Io ero nato nella capanna del bracconiere, nei terreni gerbi di sotto il bosco, e poco dopo mio padre fu ucciso in una rissa, e la pellagra finì mia madre, rimasta sola in quella misera capanna. Io fui allora accolto nel castello perché mio nonno Aiolfo si prese pietà e crebbi per le cure della gran balia Sebastiana. Ricordo che quando Medardo era ancora ragazzo e io avevo pochi anni, alle volte mi lasciava partecipare ai suoi giochi, come fossimo di pari condizione. Poi la distanza crebbe con noi e io rimasi alla stregua dei servi. Ora nel dottor Triloni trovai un compagno come mai ne avevo avuto. Il dottore aveva 60 anni ma era alto quanto me. Aveva un viso rugoso come una castagna secca, sotto il tricorno e la parrucca. Le gambe, che le uose inguainavano fino a mezza coscia, sembravano più lunghe, sproporzionate come quelle d'un grillo, anche per via dei lunghi passi che faceva. E indossava una marsina color tortora con le guarnizioni rosse, sopra la quale portava a tracolla la borraccia del vino Cancarone. La sua passione per i fuochi fatui ci spingeva a lunghe marce notturne per raggiungere i cimiteri dei paesi vicini, dove si potevano vedere talvolta fiamme più belle per colore e grandezza di quelle del nostro camposanto abbandonato. Ma guai se questo nostro armeggiare era scoperto dai paesani. Scambiati per ladri sacrileghi, fummo inseguiti una volta per parecchie miglia da un gruppo d'uomini armati di roncole e tridenti. Eravamo in posti scoscesi e torrentizi. Io e il dottor Triloni saltavamo a gambe levate per le rocce, ma sentivamo i paesani inferociti avvicinarsi dietro di noi. In un punto chiamato Salto della Ghigna, un ponticello di tronchi attraversava un abisso profondissimo. Invece di passare il ponticello, io e il dottore ci nascondemmo in un gradino di roccia proprio sul ciglio dell'abisso, appena in tempo, perché già avevamo alle calcagna i paesani. Non ci videro e gridando «Dov'è che è che sono quei bastardi?» corsero di filato per il ponte. Uno schianto, e urlando furono inghiottiti a precipizio nel torrente che correva laggiù in fondo. A me e a Triloni lo spavento per la nostra sorte si trasformò in sollievo per il pericolo scampato e poi di nuovo in spavento per l'orrenda fine che i nostri inseguitori avevano fatto. Osammo appena sporgerci e guardare giù nel buio dove i paesani erano scomparsi. Alzando gli occhi vedemmo i resti del ponticello. I tronchi erano ancora ben saldi, solo che a metà erano spezzati come se li avessero segati. Né in altro modo potevamo spiegarci come quel grosso legno avesse ceduto con una rottura così netta. «C'è la mano di chi so io», disse il dottor Triloni, e anch'io avevo già capito. Infatti s'udì un rapido zoccolio, e sul ciglio del burrone comparvero un cavallo e un cavaliere mezzo avvolto in un mantello nero. Era il visconte Medardo, che col suo gelido sorriso triangolare contemplava la tragica riuscita del tranello, imprevista forse anche a lui stesso. Certo, aveva voluto uccidere noi due. Invece andò che ci salvò la vita. Tremanti, lo vedemmo correr via su quel suo magro cavallo che saltava per le rocce, come fosse figlio d'una capra. In quel tempo mio zio girava sempre a cavallo. S'era fatto costruire dal bastaio Pietro Chiodo una sella speciale, a una cui staffa egli poteva assicurarsi con cinghie, mentre all'altra era fissato un contrappeso. A fianco della sella era agganciata una spada e una stampella. E così il visconte cavalcava con in testa un cappello piumato a larghe tese, che per metà scompariva sotto un'ala del mantello sempre svolazzante. Dove si sentiva il rumor di zoccoli del suo cavallo, tutti scappavano peggio che al passaggio di Galateo il Lebbroso, e portavano via i bambini e gli animali, e temevano per le piante, perché la cattiveria del visconte non risparmiava nessuno, e poteva scatenarsi da un momento all'altro nelle azioni più impreviste e incomprensibili. Non era stato mai malato e non aveva quindi mai avuto bisogno delle cure del dottor Triloni. Ma in un caso simile non so come il dottore se la sarebbe cavata, lui che faceva di tutto per evitare mio zio e per non sentirne neppur parlare. A dirgli del visconte e delle sue crudeltà, il dottor Triloni scoteva il capo e arricciava le labbra mormorando «Oh, oh, oh, oh», come quando gli si faceva un discorso sconveniente. E per cambiare discorso attaccava a raccontare dei viaggi del capitano Cook. Una volta provai a chiedergli come, secondo lui, mio zio potesse vivere così mutilato, ma l'inglese non seppe dirmi altro che quel «oh, oh, oh, oh, tz, tz, tz». Pareva che dal punto di vista della medicina il caso di mio zio non suscitasse nessun interesse nel dottore. Ma io cominciavo a pensare che egli fosse diventato medico solo per imposizione familiare o convenienza e di tale scienza non gli importasse affatto. Forse la sua carriera di medico di bordo era dovuta soltanto alla sua abilità nel gioco del 3-7, per cui i più famosi navigatori, primo fra tutti il capitano Cook, se lo contendevano come compagno di partita. Una notte il dottor Trelawney pescava con la rete fuochi fatui nel nostro vecchio cimitero, quando si vide davanti Medardo di Terralba, che faceva pascolare il suo cavallo sulle tombe. Il dottore era molto confuso e intimorito, ma il visconte gli si fece vicino e chiese con la difettosissima pronuncia della sua bocca dimezzata: «Lei cerca farfalle notturne, dottore?» «Oh, milord», rispose il dottore con un fil di voce. «Oh, non proprio farfalle, milord. Fuochi fatui, sa? Fuochi fatui.» «Già, i fuochi fatui. Spesso anch'io me ne sono chiesta l'origine.» «Da tempo, modestamente, ciò è oggetto dei miei studi, milord», fece Trelawney, un po' rinfrancato da quel tono benevolo. Medardo contorse in un sorriso la sua mezza faccia angolosa dalla pelle tesa come un teschio. «Come studioso, ella merita ogni aiuto», gli disse. «Peccato che questo cimitero, abbandonato com'è, non sia un buon campo per i fuochi fatui, ma le prometto che domani stesso provvederò ad aiutarla per quanto m'è possibile.» L'indomani era il giorno stabilito per l'amministrazione della giustizia. Il visconte condannò a morte una decina di contadini perché, secondo i suoi computi, non avevano corrisposto tutta la parte di raccolto che dovevano al castello. I morti furono seppelliti nella terra delle fosse comuni e il cimitero buttò fuori ogni notte una gran dovizia di fuochi. Il dottor Trelawney era tutto spaventato di quest'aiuto, sebbene lo trovasse molto utile ai suoi studi. In queste tragiche congiunture, Mastro Pietro Chiodo aveva di molto perfezionato la sua arte nel costruire forche. Ormai erano dei veri capolavori di falegnameria e di meccanica, e non solo le forche, ma anche i cavalletti, gli argani e gli altri strumenti di tortura con cui il visconte Medardo strappava le confessioni agli accusati. Io ero spesso nella bottega di Pietro Chiodo, perché era molto bello vederlo lavorare con tanta abilità e passione. Ma un cruccio pungeva sempre il cuore del bastaio. Ciò che lui costruiva erano patiboli per innocenti. «Come faccio, pensava, a farmi dar da costruire qualcosa d'altrettanto ben congegnato, ma che abbia un diverso scopo? E quali possono essere i nuovi meccanismi che io costruirei più volentieri?» Ma non venendo a capo di questi interrogativi, cercava di scacciarli dalla mente, accanendosi a fare gli impianti più belli e ingegnosi che poteva. «Devi dimenticarti lo scopo al quale serviranno», diceva anche a me. «Guardali solo come meccanismi, vedi quanto sono belli.» Io guardavo quelle architetture di travi, quel saliscendere di corde, quei collegamenti d'argani e carrucole, e mi sforzavo di non vederci sopra i corpi straziati, ma più mi sforzavo più ero obbligato a pensarci, e dicevo a Pietro Chiodo: «Come faccio?» «E come faccio io, ragazzo?» replicava lui. «Come faccio io, allora?» Ma malgrado strazi e paure, quei tempi avevano la loro parte di gioia. L'ora più bella veniva quando il sole era alto e il mare d'oro, e le galline fatto l'uovo cantavano, e per i viottoli si sentiva il suono del corno del lebbroso. Il lebbroso passava ogni mattina a far la questua per i suoi compagni di sventura. Si chiamava Galateo e portava appeso al collo un corno da caccia, il cui suono avvertiva da distante della sua venuta. Le donne udivano il corno e posavano sull'angolo del muretto uova, o zucchini o pomodori, e alle volte un piccolo coniglio scoiattato, e poi scappavano a nascondersi portando via i bambini, perché nessuno deve rimanere nelle strade quando passa il lebbroso. La lebbra s'attacca da distante, e perfino vederlo era pericolo. Preceduto dagli squilli del corno, Galateo veniva pian piano per i viottoli deserti, con l'alto bastone in mano e la lunga veste tutta stracciata che toccava terra. Aveva lunghi capelli giallo stopposi e una tonda faccia bianca, già un po' sbertucciata dalla lebbra. Raccoglieva i doni, li metteva nella sua gerla e gridava dei ringraziamenti verso le case dei contadini nascosti, con la sua voce melata e mettendoci sempre qualche allusione da ridere o maligna. A quei nostri tempi, nelle contrade vicino al mare, la lebbra era un male diffuso e c'era vicino a noi un paesetto, Prato Fungo, abitato solo da lebbrosi, ai quali eravamo tenuti a corrispondere dei doni che appunto raccoglieva Galateo. Quando qualcuno della marina o della campagna veniva colto dalla lebbra, lasciava parenti e amici e andava a Prato Fungo a passare il resto della sua vita, attendendo d'essere divorato dal male. Si parlava di grandi feste che accoglievano ogni nuovo giunto. Da lontano si sentivano fino a notte salire dalle case dei lebbrosi suoni e canti. Molte cose si dicevano di Prato Fungo, sebbene nessuno dei sani mai vi fosse stato. Ma tutte le voci erano concordi nel dire che là la vita era una perpetua baldoria. Il paese, prima di diventare asilo dei lebbrosi, era stato un covo di prostitute, dove convenivano marinai d'ogni razza e d'ogni religione, e pareva che ancora le donne vi conservassero i costumi licenziosi di quei tempi. I lebbrosi non lavoravano la terra, tranne che una vigna d'uva fragola, il cui vinello li teneva tutto l'anno in stato di sottile ebbrezza. La grande occupazione dei lebbrosi era suonare strani strumenti da loro inventati, arpe alle cui corde erano appesi tanti campanellini, e cantare in falsetto e dipingere le uova con pennellate d'ogni colore come fosse sempre Pasqua. Così, struggendosi in musiche dolcissime, con ghirlande di gelsomino intorno ai visi sfigurati, dimenticavano il consorzio umano dal quale la malattia li aveva divisi. Nessun medico nostrano aveva mai voluto prendersi cura dei lebbrosi. Ma quando Triloni si stabilì tra noi, qualcuno sperò che egli volesse dedicare la sua scienza a sanare quella piaga delle nostre regioni. Anch'io condividevo questa speranza nel mio modo infantile. Da tempo avevo una gran voglia di spingermi fino a Prato Fungo ed assistere alle feste dei lebbrosi, e se il dottore si fosse messo a sperimentare i suoi farmaci su quegli sventurati, m'avrebbe forse qualche volta permesso d'accompagnarlo fin dentro il paese. Ma nulla di questo avvenne. Appena sentiva il corno di Galateo, il dottor Triloni scappava a gambe levate e nessuno sembrava aver più di lui paura del contagio. Qualche volta cercai di interrogarlo sulla natura di quella malattia, ma lui diede risposte evasive e smarrite, come se la sola parola lebbra bastasse a metterlo a disagio. In fondo, non so perché ci ostinassimo a considerarlo un medico. Per le bestie, specie le più piccole, per le pietre, per i fenomeni naturali, era pieno d'attenzione. Ma gli esseri umani e le loro infermità lo riempivano di ripugnanza e sgomento. Aveva orrore del sangue, toccava solo con la punta delle dita gli ammalati e di fronte ai casi gravi si tamponava il naso con un fazzoletto di seta bagnato nell'aceto. Pudico come una fanciulla al vedere un corpo nudo arrossiva, se poi si trattava di una donna teneva gli occhi bassi e balbettava. Donne, nei suoi lunghi viaggi per gli oceani, pareva non ne avesse conosciute mai. Per fortuna da noi a quei tempi i parti erano faccende da levatrice e non da medici. Se no, chissà come si sarebbe tratto d'impegno. A mio zio venne l'idea degli incendi. Nella notte, tutto un tratto, un fienile di miseri contadini bruciava, o un albero da legna, o tutto un bosco. Si stava fino al mattino, allora, a passarci di mano in mano secchi d'acqua per spegnere le fiamme. Le vittime erano sempre poveracci che avevano avuto da dire col visconte, e per qualcuna delle sue ordinanze sempre più severe e ingiuste, o per i balzelli che aveva raddoppiato. Non contento di incendiare i beni, prese a dar fuoco agli abitati. Pareva che s'avvicinasse di notte, lanciasse esche infuocate sui tetti e poi scappasse a cavallo, ma mai nessuno riusciva a coglierlo sul fatto. Una volta morirono due vecchi, una volta un ragazzo restò col cranio come scoiato. Nei contadini l'odio contro di lui cresceva. I suoi più ostinati nemici erano le famiglie di religione ugonotta che abitavano i casolari di Col Gerbido. Là gli uomini montavano la guardia a turno tutta la notte per prevenire gli incendi. Senza alcuna ragione plausibile, una notte andò fin sotto le case di Prato Fungo, che avevano i tetti di paglia, e vi lanciò contro pece e fuoco. I lebbrosi hanno quella virtù che abbruciacchiati non patiscono dolore, e se colti dalle fiamme nel sonno non si sarebbero certo più svegliati. Ma galoppando via, il visconte sentì che dal paese s'alzava la cavatina d'un violino. Gli abitanti di Prato Fungo vegliavano intenti ai loro giochi. Si scottarono tutti, ma non sentirono male, e si divertirono secondo il loro spirito. Spensero presto l'incendio. Anche le loro case, forse perché iniettate pure se di lebbra, patirono pochi danni dalle fiamme. La cattiveria di Medardo si rivolse anche contro il suo proprio avere, il castello. Il fuoco s'alzò dall'ala dove abitavano i servi e divampò tra urla altissime di chi era rimasto prigioniero, mentre il visconte fu visto cavalcare via per la campagna. Era un attentato che gli aveva teso alla vita della sua balia e vicemadre Sebastiana. Con l'ostinazione autoritaria che le donne pretendono di mantenere su coloro che ha visto bambini, Sebastiana non mancava mai di rimproverare al visconte ogni nuovo somisfatto, anche quando tutti si erano convinti che la sua natura era votata a un'irreparabile, insana crudeltà. Con l'ostinazione autoritaria che le donne pretendono di mantenere su coloro che han visto bambini, Sebastiana non mancava mai di rimproverare al visconte ogni nuovo somisfatto, anche quando tutti s'eran convinti che la sua natura era votata a un'irreparabile, insana crudeltà. Sebastiana fu tratta malconcia fuori dalle mura carbonizzate e dovette tenere il letto molti giorni per guarire dalle ustioni. Una sera, la porta della stanza in cui lei giaceva s'aperse e il visconte le apparve accanto al letto. «Che cosa sono quelle macchie sulla vostra faccia, Balia?» disse Medardo, indicando le scottature. «Un'orma dei tuoi peccati, figlio», disse la vecchia, serena. «La vostra pelle è screziata e stravolta. Che male avete, Balia?» «Un male che è nulla, figlio mio, rispetto a quello che t'aspetta in inferno, se non ti ravvedi. Dovreste guarire presto. Non vorrei che si sapesse in giro di questo male che avete». «Non ho da prender marito per curarmi del mio corpo. Mi basta la buona coscienza, potessi tu dire altrettanto. Eppure il vostro sposo v'aspetta per portarvi via con sé, non lo sapete?» «Non deridere la vecchiaia, figlio, tu che hai avuto la giovinezza offesa». «Non scherzo! Ascoltate, Balia, c'è il vostro fidanzato che suona sotto la vostra finestra!» Sebastiana tese l'orecchio e sentì fuori dal castello il suono del corno del lebbroso. L'indomani Medardo mandò chiamare il dottor Triloni. «Macchie sospette sono comparse, non si sa come, sul viso d'una nostra vecchia servente», disse al dottore. «Tutti abbiamo paura che sia lebbra. Dottore, ci affidiamo ai lumi della sua sapienza». Triloni si inchinò balbettando. «Mio dovere, milord. Sempre ai suoi ordini, milord». Si girò, uscì, sgattaiolò via dal castello, prese con sé un barilotto di vino Cancarone e scomparve nei boschi. Non lo si vide più per una settimana. Quando tornò, la balia Sebastiana era stata mandata al paese dei lebbrosi. Aveva lasciato il castello una sera al tramonto, nero vestita e velata, con infilato al braccio un fagotto delle sue robe. Sapeva che la sua sorte era segnata. Doveva prendere la via di Pratofungo. Lasciò la stanza dove l'avevano tenuta fino allora e non c'era nessuno nei corridoi né nelle scale. Scese, attraversò la corte, uscì nella campagna, tutto era deserto. Ognuno al suo passaggio si ritirava e si nascondeva. Sentì un corno da caccia modulare un richiamo sommesso su due sole note. Avanti sul sentiero c'era Galateo che alzava al cielo la bocca del suo strumento. La balia s'avviò a passi lenti. Il sentiero andava verso il sole al tramonto. Galateo la precedeva ad un lungo tratto. Ogni tanto si fermava come contemplando i calabroni ronzanti tra le foglie, alzava il corno e levava un mesto accordo. La balia guardava gli orti e le rive che stava abbandonando, sentiva dietro le siepi la presenza della gente che s'allontanava da lei e riprendeva a andare. Sola, seguendo da distante Galateo, giunse a Pratofungo e i cancelli del paese si chiusero dietro di lei, mentre le arpe e i violini cominciarono a suonare. Dottor Triloni mi aveva molto deluso. Ora, andare con lui per pochi farli non mi piaceva più come prima e spesso giravo da solo in cerca di nuove compagnie. Le persone che più mi attraevano adesso erano gli ugonotti che abitavano Col Gerbido. Era gente scappata in Francia, dove il re faceva tagliare a pezzi tutti quelli che seguivano la loro religione. Nella traversata delle montagne avevano perduto i loro libri e i loro oggetti sacri e ora non avevano più né Bibbia da leggere, né messa da dire, né inni da cantare, né preghiere da recitare. Diffidenti come tutti quelli che sono passati attraverso persecuzioni e che vivono in mezzo a gente di diversa fede, essi non avevano voluto più ricevere alcun libro religioso, né ascoltare consigli sul modo di celebrare i loro culti. Se qualcuno veniva a cercarli dicendosi loro fratello ugonotto, essi temevano che fosse un emissario del Papa travestito e si chiudevano nel silenzio. Così si erano messi a coltivare le dure terre di Col Gerbido e si sfiancavano a lavorare maschi e femmine da prima dell'alba a dopo il tramonto, nella speranza che la grazia li illuminasse. Erano una gran famiglia piena di nipoti e nuore, tutti lunghi e nodosi, e lavoravano la terra sempre vestiti a festa, neri e abbottonati, col cappello a larghe tese spioventi gli uomini e con la cuffia bianca le donne. Gli uomini portavano lunghe barbe e giravano sempre con lo schioppo a tracolla, ma si diceva che nessuno di loro avesse mai sparato fuorché ai passeri, perché lo proibivano i comandamenti. Dai ripiani calcinosi dove a fatica cresceva qualche misera vite e dello stento frumento, s'alzava la voce del vecchio Ezechiele, che urlava senza posa coi pugni levati al cielo, tremando nella bianca barba caprina, roteando gli occhi sotto il cappello a imbuto. «Peste e carestia! Peste e carestia!» sgridando i familiari chini al lavoro. «Vai con quella zappa, Giona! Strappa l'erba, Susanna! Tobia, spargi il letame!» E dava mille ordini e rimproveri, con l'astio di chi si rivolge a un branco di netti e di sciuponi. E ogni volta, dopo aver gridato le mille cose che dovevano fare perché la campagna non andasse in malora, si metteva a farle lui stesso, scacciando gli altri d'intorno e sempre gridando «Peste e carestia!» Manuela Mandracchia ha letto Il Visconte dimezzato di Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.